effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! Ciao a tutti, bentornati, siamo sempre su Radio Wombat. Stiamo parlando del libro Divieto d'infanzia di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu, nell'edizione delle BFS Edizioni, la versione aggiornata. Ciao, un saluto a Sebastiano che è con noi. Ciao Seba. Ciao a tutti, ciao. Ciao, niente Seba, allora andiamo avanti con il discorso. Volevamo affrontare con te il discorso della scuola e degli insegnanti e dell'insegnamento. Allora, si diceva che la tendenza è sempre di più a medicalizzare e a considerare i comportamenti dei bambini, magari anche comportamenti che esprimono un disagio, una sofferenza, a considerarli delle malattie, no? E quindi ti chiediamo se si può provare ad avere un altro approccio a scuola, cioè come ci diceva Whitaker, no? Abbiamo diminuito la diagnosi di ADHD quando abbiamo cambiato la scuola, cambiato approccio, cambiato metodo di insegnamento, perché io noi no, come collettivo antipsichiatrico Antonio Artaud comunque registriamo no, l'attuale tendenza dell'insegnamento e della pedagogia è quella di farsi coadiuvare dalla neuropsicatria. Ogni volta che un bambino disturba, appunto, no, questo disagio comportamentale viene invece che essere valutato come un campanello d'allarme, magari la relazione adulto-bambino viene visto come un bambino difettoso, no? Come una normalità, come un comportamento da curare. Quindi, da un lato, dall'altro lato, l'educatore e l'insegnante vengono deresponsabilizzati in qualche maniera, no? Vengono dispensati dal modificare il loro approccio relazionale e educativo, perché viene delegato a un esperto, in questo caso il neuropsichiatra o lo psichiatra, che affronta il problema da un punto di vista della salute mentale. Quindi ti chiediamo a te quali sono le alternative dell'insegnamento, degli insegnanti, e qual è, se è possibile fare una scuola con un diverso approccio. Sì, si può anche girare la questione, nel senso che è tanto la neuropsichiatria, la psichiatria, non solo, la medicina in generale, che sta invadendo un pochino il campo di quello che è la pedagogia, la didattica, il lavoro, insomma, per dirlo in breve, che si fa a scuola. Io non so se possono fare bene al nostro discorso dei riferimenti alla realtà. E noi abbiamo il NIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, che ogni due o tre anni pubblica delle ricerche, delle statistiche molto precise, e fanno un po' impressione, perché solo per dire della disabilità si è passati da si è quasi raddoppiato il numero dei disabili che sono nelle nostre scuole. Si parla dal 2004 al 2017 un 54,5% in più per cento. 3 allievi su 100 sono considerati disabili, e si parla di disabilità che non sono quelle fisiche, sono in stragrande maggioranza quelle cosiddette intellettive, dell'attenzione, dei comportamenti affettivo-relazionali, dell'apprendimento. Non si capisce come, ad esempio, un altissimo numero di alunni stranieri, molti di più degli alunni italiani, sono disabili, e stiamo parlando quasi di un quarto in più, che uno viene da dire, ma com'è che funziona? Le migrazioni, gli studenti migranti che arrivano in Italia sembrano quasi scelti fra i disabili, come se l'Italia fosse una specie di ci sono delle cose che non tornano. sono delle cose che non tornano. Se uno poi va a vedere per esempio le percentuali dei DSA, dei disturbi specifici dell'apprendimento, l'aumento è ancora più grande, si passa da un 0,7% del 2010 al 2,9% di oggi, del 314%. È vero che prima del 2010 non c'era una legge che li riconosceva, è stato anche buono che c'è stata una legge che li ha riconosciuti, perché ci sono tanti DSA, tanti studenti e studentesse dislessiche, dislessici, discalculici, che hanno veramente bisogno di un'attenzione pedagogica particolare. Ma anche è vero che si parla sempre di più oggi, c'è una letteratura scientifica, c'è la stessa Pearson, che è una casa editrice, per dire, una fra i tanti, di testi di scuola, che parla di appunto di difficoltà poi di individuare le vere dislessie, e parla più che di dislessie vere, di difficoltà. Difficoltà che appunto si risolvono di solito con altri metodi che non la medicalizzazione in questo caso. E poi c'è l'altro grande gruppo di quelli dei cosiddetti PES. Esatto. E qui c'è un discorso vasto. Non so se mi vuoi fare qualche domanda nello sì, specifico. Perché... No, sui PES, sì, no, sul PES volevo un attimo che ce ne parli, perché anche noi, insomma, da sia come collettivo ma anche come lavoratori nella scuola, vediamo che c'è un aumento sproporzionato, no? dei bisogni educativi speciali, no, lo danno quasi a tutti, a chi ha manifestato dei comportamenti che non vanno bene, che non sono considerati adatti, no? E anche come educatori ci troviamo, io personalmente mi trovo anche in difficoltà, no? nella gestione dei bambini, perché lavoro con la disabilità, ma poi dovrebbe affrontare i bambini come BES e che hanno magari un problema di familiare o più legato all'ambiente dove vivono, ha delle relazioni con gli adulti e c'è queste difficoltà, queste mancanze anche di formazione, no? Sì, sembra che hanno... Ora, i BES sono una categoria che vengono dagli special needs di scuola anglosassone, li hanno importati in Italia da fine 2012 a oggi, e sembra che ci siano un po' tutte le categorie, no, che facevano parte del DSM-5, che non erano ancora state raggruppate nella grande gruppo delle disabili, delle disabilità e dei disturbi specifici d'apprendimento. Sembra che hanno trovato, come dire, una casa all'interno dei BES, che quando si dice BES sarebbero poi i BES di terzo tipo, perché anche le disabilità e i disturbi sono considerati BES. I BES dello disagio e dello svantaggio economico, culturale, in pratica. Qui, per fare degli esempi, vengono inseriti in questo gruppo cose, diciamo, come il lutto, come la separazione genitoriale, come la difficoltà di una lingua in seguito, nell'apprendimento di una lingua in seguito a una migrazione, le avversità economiche della famiglia, la timidezza, l'ansia. Si può certificare, di solito viene certificato basandosi sul DSM, ora ti vado la quinta edizione, oppure su un altro standard che si chiama ICF, International Cataloging and Functioning, eccetera, che è uno standard medico, appunto, che ha il controllo clinico sugli aspetti biopsicosociali dell'intera esistenza umana. Si presenta di solito così nei corsi di formazione dedicati agli insegnanti. Per cui c'entra tutto. C'entrano appunto il lutto, la separazione, cioè cose che... Le grandi difficoltà che capitano nella vita delle persone, dei ragazzi spesso, delle ragazze, degli studenti, qual è il punto? Che la scuola riconosce un abbassamento delle aspettative. Nel momento in cui, tramite una certificazione, una diagnosi, vengono riconosciuti questi cosiddetti disagi, svantaggi, eccetera, a livello di scuola viene elaborato un piano didattico personalizzato, viene personalizzato l'insegnamento, e questa personalizzazione comporta insieme al riconoscimento della, diciamo, della sofferenza che poi c'è, indubbiamente quando capitano cose di questo tipo è logico che c'è una persona che soffre di qualcosa, quindi te riconosci questa sofferenza e quasi automaticamente elabori però un qualcosa che è nello stesso tempo burocratico e cogente, nel senso che sei obbligato a fare. È un piano burocratico, perché in pratica in questo piano didattico personalizzato vengono inseriti dei strumenti cosiddetti compensativi, compensazioni per coprire ciò che manca, sarebbe questo il significato, e dispensativi, quindi viene tolto, viene dispensato una parte. Ora, qual è il punto? Che nel modo di fare scuola, un po', come dice, dove si tiene conto della relazione, dove si tiene conto dell'empatia, dove si tengono conto di una serie di rapporti che si instaurano tra insegnante e studente, queste cose vanno da sé, non dovrebbero essere fotografate, messe nero su bianco una volta per tutte, perché altrimenti viene a meno di quel rapporto didattico, di quel rapporto relazionale che è il sale stesso dell'insegnamento e della vita, che poi l'insegnamento è la vita che si trascorre giorno per giorno all'interno dell'aula con tante persone, con un gruppo di persone e con tanti individui nello stesso tempo. È questa cosa che viene a mancare. Tu burocratizzi quello che è un rapporto, e poi cosa succede? È una burocrazia tremenda sotto tanti punti di vista, perché si firma un contratto, il piano didattico personalizzato è un contratto, ed è quindi una contrattualizzazione di un rapporto che invece dovrebbe essere vivo. E questa contrattualizzazione cosa comporta in seguito? Comporta che tu, insegnante, devi applicarla anche con molta attenzione, perché poi c'è l'incubo dei cosiddetti ricorsi, che quello sì che agisce nella mentalità di un insegnante. È una specie di lavoro un po' sotto una spada di Damocle, ecco. E così si uccide veramente il rapporto educativo, che è fatto di tutt'altre cose. Ti butto là una provocazione proprio per quello che vediamo, ma si può dire che sono aumentate le diagnosi anche per avere la possibilità di avere degli insegnanti di sostegno o degli operatori nelle classi, in classi sempre più difficili da gestire, perché chiaramente la tendenza della scuola italiana dalla riforma dove dobbiamo arrivare a De Mauro, insomma, o ancora più indietro Berlinguer, è sempre stata quella di allargare il numero degli studenti all'interno delle classi, diminuire quello degli insegnanti, aumentare il turnover e quindi rendere, insomma, la difficoltà della gestione del gruppo classe più alta. È una provocazione, è un'illazione, o in qualche modo è qualcosa che ci può stare? Qual è la tua opinione o riflessione in merito? No, non vedo dov'è la provocazione. Cioè, un dato di fatto è proprio indubbio che c'è un aumento esponenziale degli insegnanti di sostegno all'interno delle classi, e che tra l'altro fino a qualche anno fa non riusciva neanche a stare, malgrado ci fosse un aumento enorme del numero degli insegnanti di sostegno, questo aumento non riusciva a stare dietro all'aumento degli alunni disabili, che era ancora più esponenziale. E io non so se c'è un piano dietro, ovvero quello di non penso che si arrivi a pensare di assumere più persone possibile, perché alla fine non giova a nessuno, e non giova il fatto che comunque sono sempre pochi, fra l'altro, rispetto all'aumento che c'è. Che cosa succede? Succede che le disabilità, come dire, quelle vere, quelle gravi, alla fine si ritrovano a non avere un giusto apporto da parte degli insegnanti di sostegno, perché sono troppi disabili, ecco perché però non so rispondere alla tua domanda, non so dirti se c'è un piano dietro tutto questo. No, certo, certo. Cioè, ti dici per assumere più persone e per sgravare un pochino i precari che sono. Diciamo il contrario, che in qualche modo, proprio perché l'insegnante si trova solo, prima con 20, oggi con quasi 30, a un certo punto il fatto di aumentare o rendere più facili le certificazioni, diciamo così, con questo termine volgare con il quale perlomeno dalle nostre parti si identificano coloro che sono sottoposti a diagnosi e percorsi terapeutici o farmacologici, sia poi una pratica a cui le stesse scuole ricorrono senza porsi troppi interrogativi, o anche laddove gli interrogativi si vengono posti nella consapevolezza che le difficoltà di cui si parla sono da ricondurre non tanto a un disagio che affonda in aspetti organici o neurologici, ma proprio ad aspetti ambientali della vita dei ragazzi e delle ragazze. Però la certificazione la si fa fare perché questo ci permette di avere un sostegno che non è solo il sostegno al ragazzo, ma è un sostegno all'intero gruppo classe, che è un sostegno poi agli insegnanti, e quindi sono le stampelline continue con cui si va avanti, insomma, ecco, questo intendevo dire, fino ad arrivare alle ultime figure. Seba, scusa, ti lascio la parola, dei potenziatori, perché anche questa è l'ultima novità, no, della buona scuola, così realizzata, perché di fatto è operativa, e di queste nuove figure che poi non fanno né l'una né l'altra cosa, a volte fanno una sostituzione, a volte fanno un po' di sostegno, altre volte una materia, e insomma, perlomeno questa è l'esperienza che ho io, che vedo le cose dalla scuola superiore. Certamente è diverso dalle elementari, diverso dalle medie, perché ogni ciclo ha le sue specificità, però insomma, ecco, c'è anche un moltiplicarsi di figure che hanno perimetri e responsabilità abbastanza sfumati e a volte così ambigui da non sapere bene cosa fanno tutto e niente. Sì, sotto il profilo è vero che parli del potenziamento, ed è vero che magari diminuendo il numero degli alunni per classe chi sta nel potenziamento e ancora hanno bisogno di una collocazione, perché come hai visto te, lo vedo anch'io ogni giorno nella mia esperienza quotidiana, chi sta nel potenziamento spesso non ha un compito ben preciso, quando va bene viene usato come tappabuchi, quando va meglio viene usato in qualche progetto. E magari diminuendo il numero degli alunni per classe si troverebbe il modo di far entrare in classe anche chi sta in potenziamento, che non si vive bene spesso questa situazione da insegnante tra virgolette di serie B. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, devo dirti però che sono previsti solamente nel caso delle disabilità, e quindi ci sono persone in più solamente quando ci sono disabilità. Le disabilità non vengono decise dal Ministero dell'Istruzione, ma vengono decise in prima istanza da medici. Il primo passaggio, sia che venga richiesto dai genitori o comunque quello della diagnosi funzionale all'interno di una scuola, che viene fatto da un'equipe medica, e in seguito poi c'è il passaggio all'interno delle scuole, l'accettazione quindi della certificazione e conseguentemente la chiamata degli insegnanti di sostegno. Per i DSA e per i PES del disagio e dello svantaggio non sono previste insegnanti di sostegno. Probabilmente in particolari progetti entrano altre figure, come appunto quelle del potenziamento, però diciamo che il potenziamento poi anche al di là, ora non so bene nello specifico, non saprei entrare nello specifico dell'insegnante potenziamento, però vedo per esperienza personale che comunque è logico, dove c'è una situazione di difficoltà all'interno di una classe, quindi con presenza di studenti certificati con PES o altro tipo, è più facile che ci sia un potenziamento, ma anche in altre situazioni. Sì, hanno una serie di situazioni svariate, che con delle soluzioni che ora sembrano non risolvere più di tanto. Ecco, questa è la sensazione che ti posso dire io. Non so se ho risposto alla tua provocazione. Certo, certamente, sì, grazie. E facciamo una brevissima pausa musicale, lasciando i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici agli immortali Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Eccoci, eccoci, eccoci, per chi si fosse collegato adesso, questa è Radio Wombat, lo spazio della stampa rassegnata. Stiamo mandando in onda la seconda parte dell'intervista e della chiacchierata libera che abbiamo fatto con Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu sulla, diciamo, presentazione radiofonica del libro Divieto di Infanzia. Questa è la seconda parte dell'intervista che, per chi non avesse ascoltato la prima, suggeriamo di scaricare attraverso la sezione podcast del sito, anche la precedente parte in cui Chiara, l'autrice del libro, espone, insomma, i contenuti e dialoga con noi, con me e con Diego del collettivo Antonin Artaud antipsichiatrico di Pisa. Questa invece è la seconda parte in cui Sebastiano Ortu, che ha curato la edizione aggiornata per le edizioni Franco Serrantini di Pisa, ci espone, insomma, gli argomenti e le specificità che, come formatore, come lavoratore della scuola, ha portato nella riflessione lanciata da Chiara attraverso il suo libro. Buon ascolto e buon proseguimento. No, io volevo fare un passo indietro e riallacciarmi a quello che diceva prima la Chiara, no? Dei questionari. Dei questionari che sono diffusi nelle scuole, da dove poi si fa delle diagnosi prima di ADHD e poi, no, ci diceva un punto la Chiara anche di diagnosi poi altre, no? Di altro tipo. Ecco, ti volevo domandare quali sono le possibilità di opposizione alla diffusione dei questionari e le possibilità di opposizione degli insegnanti a degli obiettivi formativi che poi che limitano, no, in qualche maniera la libertà professionale degli insegnanti. Cioè, se c'è un'alternativa che l'insegnante può mettere in atto rispetto appunto a questa diffusione dei questionari e a una medicalizzazione poi dilagante. Sì, in pratica succede che spessissimo ci chiamano a diventare un ingranaggio, e anche importante, all'interno di questo meccanismo di medicalizzazione. Ora, io i questionari che ho avuto modo di vedere da vicino sono quelli soprattutto sulla DHT e sono particolari, perché a parte ti arrivano quando meno te l'aspetti, di solito può capitare che te lo porta all'alunno e ti dice: prof, c'è questo questionario da fare, e uno che non ha mai visto una cosa del genere si mette lì, ho visto con i miei occhi colleghi che si sono messi con la santa pazienza a fare l'ennesimo, no, lavoro in più che c'è da fare nella scuola. Si può arrivare a dei stessi genitori, addirittura dal preside, e te ti ritrovi a mettere le crocette da 0, 1, 2, 3 a seconda della gravità, domande come si eccita eccessivamente, a tempi di attenzione si dimena sulla sedia, agisce come fosse guidato da un motore, usa armi, ad esempio una mazza, un mattone, una bottiglia rotta, un coltello, una pistola, perché sono questionari tradotti portati dall'America e quindi magari hanno anche questo tipo di sì, mi sembra, no? Addirittura ci sia, è un angioletto o si comporta come un diavoletto, cioè di scientifico, si muove come se avesse l'argento vivo addosso, domande molto così fantasiose perlomeno, no? Queste per esempio sono domande del Connors è stato uno dei padri della DHD, uno di quelli che ha contribuito allo sdoganamento del metilfenidato, ovvero del Ritalin fondamentalmente, che ha fatto, oltre questo, per la parte, diciamo, da farmacologica, ha approfondito anche la parte degli strumenti diagnostici. Vabbè, Connors è stato uno che poco prima di morire ha dichiarato che la malattia della DHD non esisteva fondamentalmente. E noi ci ritroviamo appunto con questi questionari e la risposta potrebbe essere anche molto semplice: nessuno ci dice, da nessuna parte, di nessun contratto di lavoro ci dice che tra le nostre mansioni ci sono quelle di riempire questionari. Dobbiamo insegnare, dobbiamo fare le 40 ore più 40 di attività funzionali, dobbiamo correggere i compiti a casa, quello sì. E da nessuna parte c'è scritto così, ci hanno provato un po', intorno al 2008-2009 sono uscite note, circolari ministeriali che in un linguaggio un po' non chiaro dicevano che dovevamo fare cose di questo tipo. In realtà ultimamente la regione Piemonte, la regione Emilia Romagna e la provincia di Trento, in Emilia Romagna in accordo con il MIUR, con l'ufficio scolastico regionale, hanno dato delle direttive ben precise sul non obbligo, anzi non valido come set di lavoro quello della scuola e dell'insegnante che fa un'osservazione che è comunque parziale e quindi non riconosce e non obbliga assolutamente l'insegnante a fare questa cosa qui. In realtà noi, a nessuno ce lo impone, e dove si rifiuta di farlo, come ho fatto io ad esempio, nessuno ti può dire nulla, ecco, anche perché ne va un pochino della deontologia, ma come si fa veramente? Come si fa a rispondere a queste domande cercando di mantenere una serietà che la scientificità di questi questionari, presunta scientificità di questi questionari, vorrebbe pretendere? Sì. Sarebbe da leggerle tutte quante, proprio per capire a quali livelli di spesso di paradosso arrivano, ecco. Sì, no, nel libro il questionario c'è, no? viene riportato, e sì, di scientifico c'è proprio poco, insomma, quasi nulla, e fa sorridere, però poi se ci pensi, no, fa anche arrabbiare, perché se pensi che... Sì, fa arrabbiare perché attraverso questi questionari sono parti importanti della medicalizzazione, come in questo caso, come ADHD, degli studenti, e tenendo conto tra l'altro che ora ci sono protocolli, registri intorno alla DHT che stabiliscono ad esempio che bisogna intervenire sia a livello di intervento, diciamo, psicanalitico che di intervento farmacologico. In realtà, e questo è scritto anche nel registro nazionale della DHD, che è il documento principale uscito due anni fa, nel 2016, ci dicono anche loro che per mancanza poi di fondi spesso la soluzione farmacologica, ovvero anfetamine, che poi si tratta di questo, perché il fenidato è pratica un'anfetamina che viene somministrato, dicono loro, dalla tenera età di 6 anni fino a 18 anni e poi oltre, perché tra l'altro provoca anche assuefazione. E quindi noi siamo chiamati a diventare una ruota dentata non indifferente in questo meccanismo qua, e quindi si tratta anche di vedere che tipo di responsabilità ci andiamo a prendere nel momento in cui ci offriamo a compilare questionari di questo genere. Sì, certo, no, su quello che dicevi te a proposito dell'intervento farmacologico e quello combinato, no, con il psicosociale, chiamiamolo così. Quello che mi domando io, no, è che come mai prima del trattamento chimico non si delinea un intervento magari, insomma, educativo, relazionale, per valutare la possibilità di non ricorrere ai farmaci. Cioè, no, si va subito. Questo è il punto. Sì, perché fondamentalmente stiamo perdendo il senso del nostro lavoro. E bisognerebbe porsi veramente fino in fondo la domanda perché sta a insegnare. Nel momento in cui devo delegare a soluzioni di questo tipo un lavoro che può essere certamente difficile, che però è fatto, il nostro lavoro è fatto di altro. È vero poi che le pasticche, in questo caso i psicofarmaci, fanno il loro lavoro, nel senso la disattenzione migliora nel momento in cui lo studente prende il Ritalin, cioè voglio crederci, l'anfetamina è come se si prendono 20 caffè. Fatto sta che è una, come dire, una scorciatoia, tanto più che si combatte il sintomo e non si combatte la causa. Certo. E noi stiamo interagendo comunque con persone che sono nel piano della maturazione, non a caso si chiama età evolutiva. Dai 6 anni in poi si va come un treno, si cambia giorno dopo giorno, o si cambia 10 giorni tutti insieme e per 2 anni non si cambia, si rimane gli stessi. C'è l'orologio biologico che va a una velocità vorticosa, e noi è dall'interazione che si ha giorno per giorno che si vedono i miglioramenti, dei miglioramenti che poi possono essere anche, perché miglioramento va chiamato in un certo senso, no? Ci sta anche che per esempio non si adatti alla scuola e si adatti a fare altre cose, se ne prende anche atto a un certo punto. Lo studente sta nell'età della mutevolezza, della variabilità, della transizione continua, e la crescita fra l'altro non è fatta solamente di biochimica, ma è fatta di fattori ambientali che non sono catalogabili, e noi proprio con questo interagiamo giorno dopo giorno. Non toglieteci l'interazione, il discorso è questo, non toglieteci la relazione, la capacità di empatizzare con chi ci sta davanti. Perché la pasticca blocca sì il sintomo, però blocca pure la maturazione, blocca la crescita nel momento in cui proprio con l'esperienza avviene la crescita, nel momento in cui anche con una situazione dolorosa può cominciare una motivazione individuale a intraprendere un percorso. Nel momento in cui do lo psicofarmaco, io blocco questo percorso. Il punto è questo, e quindi ci riguarda, siamo noi insegnanti, oltre agli studenti, alle studentesse, ma anche noi insegnanti abbiamo un problema, è un problema che riguarda direttamente il nostro fare scuola, la nostra deontologia, se vogliamo chiamarla così, professionale, il bello del nostro lavoro quotidiano. Io penso che te, cioè, con quello che hai detto, cogli veramente una frustrazione, un punto che sicuramente sta diventando sempre più centrale nelle vite e nelle coscienze di tantissimi lavoratori, operatori, che nell'universo della scuola, ma anche in quello forse più generale dei servizi sociali, alla persona, all'assistenza, si misurano veramente, appunto, con quello che hai detto, insomma, con il diventare piano piano ingranaggi di macchine che però ci espropriano le finalità per le quali operiamo, e quindi questo appunto ha sempre due vittime, no? Da una parte chi viene sottoposto a un processo di medicalizzazione e chi è un modo apparentemente trasparente o forse irresponsabile, però ne è anche complice e ugualmente vittima. E ti volevo, diciamo, una domanda così tra virgolette autobiografica, chiedere proprio questo, ma l'esigenza o l'opportunità, l'occasione di scrivere l'aggiornamento di questo libro ti è venuta proprio lavorando e quindi entrando in contatto con qualche situazione che ti ha particolarmente sensibilizzata a questo universo di medicalizzazione, o perché conosci Chiara, o per quale altra strada, insomma, sei arrivato a questo libro? Sono diversi anni, faccio felicemente l'insegnante di sostegno, l'ho fatto spesso contemporaneamente, alternandolo durante i miei anni di insegnamento con il lavoro di cattedra, e a me piace tantissimo fare anche l'insegnante di sostegno, e sin da subito sono stato affascinato da tutto il contesto in cui si muove questo mondo, e diciamo che soprattutto dal 2012 in particolare, quando è uscita la prima direttiva sui bisogni educativi speciali, ho preso a cuore questo tema perché vedevo che c'era qualcosa che non mi tornava, e faccio parte di un gruppo, un centro studi scuola pubblica, CESP, che è, diciamo, la parte culturale dei COBAS, il sindacato COBAS, il comitato di base della scuola, e abbiamo l'opportunità come CESP di fare seminari di aggiornamento per gli insegnanti. All'interno di questi seminari, a cui valgono proprio come formazione per i colleghi, per gli insegnanti, e all'interno di questi seminari che facciamo, ormai ne facciamo veramente tanti in tutta Italia, mi è capitato ora da 2 anni circa, abbiamo deciso di dedicarci alla medicalizzazione della scuola, e ho conosciuto Chiara in questa situazione perché conoscevo Diego e mi ha messo in contatto. A parte la conoscevo, lei non sapeva che la conoscevo, lei, perché dal 2007-2008 ho letto con avidità, devo dire, il suo Divieto d'infanzia, e però ho avuto la grande fortuna di lavorare con lei, di fare con lei un convegno a febbraio scorso a Roma. Ci siamo conosciuti e lei mi ha proposto di collaborare appunto su con Divieto d'infanzia, come grande gioia, devo dire, perché è stato un lavoro fatto con molto affiatamento. Ecco, siamo riusciti a mettere insieme, da una parte, il mio sguardo di esperienza quotidiana con la scuola, più quello che ero riuscito appunto a studiare e a proporre durante i seminari che ho tenuto in questi anni, con la sua grande esperienza e il suo studio rispetto al contesto in cui tutto ciò si muove. E questo è stato, e da qui è nata la seconda edizione di Divieto d'infanzia. Bene. Sì, io l'ho letto, ho avuto la fortuna di leggere anche la seconda edizione, insomma, sì, è un gran libro, e mancava, e ci voleva sicuramente questo aggiornamento, perché appunto siamo andati avanti, no? Rispetto la prima, c'era questa, lanciava l'allarme sul psicofarmaci nella scuola, diciamo così, no? Sul Ritalin, la prima edizione. La seconda c'è proprio un aggiornamento, cioè, appunto, sui DSM e sui MES, sui DSA, come dicevi te. Noi, Seba, ti volevamo... Dimmi, dici. No, la scommessa è che di portare dentro la scuola questo tipo di riflessione, perché noi insegnanti facciamo, siamo proprio una parte grossa di questo, e spesso il dibattito all'interno della scuola è mancato, per cui ti ritrovi ad affrontare queste cose in una specie di sudditanza, e non sai bene, cioè poi... come dire, la sudditanza che c'è poi di fronte alla persona in camice, di fronte alla scienza con la S maiuscola, che a volte ti fa dimenticare di chi sei tu e del tuo ruolo enorme come persona che, appunto, come dicevo prima, che interagisce dopo giorno e che ha una sua cassetta degli attrezzi che è fatta di altre cose. Io penso, e come insegnante di sostegno interagisco continuamente con, e in positivo devo dire, con il mondo, diciamo tra virgolette, medico. Bisogna che si interagisca bene, ovvero che si riconoscano i rispettivi limiti, e bisogna che fare in modo che chi sta dentro la scuola e respira la polvere delle aule, diciamo così, insieme agli studenti tutti i giorni, abbia maggiore consapevolezza del proprio lavoro. L'obiettivo grosso nel nostro piccolo libro è quello di diffondere il più possibile questa consapevolezza, dare degli strumenti in più, ecco, e quindi ci rivolgiamo, sì, parte da me che sono un insegnante, e ci rivolgiamo agli insegnanti. Sì, no, bene. Grazie. No, poi insomma l'argomento andrebbe sviscerato, ma ce ne sarà occasione, e no, perché hai detto tante cose anche su conflitti, no, che ci fanno crescere, su cosa vuol dire appunto insegnare, educare, no? Cioè che non è che è solamente mettere dentro nozioni, no, ma c'è appunto una relazione. Io spero ci sia occasione prossimamente anche dai microfoni di Radio Wombat, ma comunque, cioè, noi, l'idea nostra era appunto farvelo presentare questo libro in Toscana a tutte e due, e penso che il nostro spazio a disposizione sia terminato. Sì, Seba, se vuoi fare un'ultima battuta non c'è nessun problema, e se no penso che abbiamo fatto talmente tanta pubblicità che per quello che è nelle nostre possibilità il libro è anche economico, perché con 10 euro si porta a casa, si può contare su qualche sconto attraverso le reti, diciamo, dei movimenti e dei collettivi. Io ti ringrazio in anticipo. Se vuoi fare un'ultima battuta, un appello, insomma, così estemporaneo, perché dovremmo leggere questo libro? Diccelo te, Seba. Perché quando si trova l'insegnante impreparato c'è un sottile piacere, eh? Dico, quando si becca l'insegnante impreparato con la domanda a bruciapelo c'è un sottile piacere. Sì, nel senso che va bene, perché leggerlo? Perché in gioco tanto, eh? È proprio in gioco, sono tante le cose che sono in gioco. Io penso che la scuola è importante, continuo a credere che la scuola sia un aspetto importante per andare avanti, per lo sviluppo positivo della nostra società, e penso che tanti dei problemi che abbiamo oggi è perché ormai è un processo che va avanti da tanti anni, da qualche decennio, e alla scuola non ci si crede più. Una scuola non per forza come quella che abbiamo frequentato noi, che era da cambiare per tanti versi, una scuola sicuramente rinnovata, ma non una scuola così, non una scuola di questo tipo, non una scuola di test dove c'è un problema e poi il risultato, non la scuola delle competenze, degli obiettivi, dei debiti, dei crediti, delle tre I, dei crediti, cioè della produttività, anche, no? Della competizione, del merito, della competizione, no, ma debiti e crediti è proprio un linguaggio ormai che è entrato dentro la scuola, si parla di debiti e di crediti, a scuola e nell'università non c'è più l'esame di riparazione, c'è il debito, anche i linguaggi, no? Dicono tanto di questo, di questa cosa, e quindi sì, credere ancora nella scuola come condivisione di esperienze penso che sia importante, e la scuola invece che ci propone questo modello di medicalizzazione va da tutt'altra direzione. Seba, grazie mille, sei stato fantastico, chiaro, preciso, grazie, ti ringraziamo. Ciao Seba, alla prossima, grazie ancora. E grazie a voi. Ciao, a presto. Ebbene, allora la nostra chiacchierata, la nostra lunga intervista in due parti, che è andata la settimana precedente con Chiara e quella che abbiamo mandato adesso e che avete finito di ascoltare con Sebastiano, intorno ai temi della psichiatrizzazione infantile, della medicalizzazione del disagio e della sofferenza psichica, finisce qui. Ripeto, sono state due interviste in sequenza che consigliamo di ascoltare per coerenza dei contenuti in seguito, anche se appunto la radio e la nostra trasmissione non hanno niente da insegnare, ma insomma per coerenza, se qualcuno fosse interessato, ve li consigliamo entrambi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che la stampa rassegnata in Radio Wombat la potete ascoltare il lunedì in diretta alle 15.30 oppure in replica il mercoledì alle 23.59, per non dire mezzanotte e non confondersi, o il giovedì mattina alle ore 8.30. Altrimenti ricorrete ai podcast attraverso la sezione apposita del sito, in cui ritrovate tutte le vecchie e le precedenti trasmissioni, che ormai abbiamo superato l'anno di esercizio, diciamo così. Vi lasciamo a un ultimo pezzo musicale dell'intramontabile Fabrizio De André, e con questo veramente pugni chiusi a tutti e a tutte, alla prossima settimana, ciao! Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole,